GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Notte di tensione e di attesa a Cordovado. Luca Orlandi, un ingegnere di 55 anni, originario del Veneto, ex ufficiale di complemento dei Carabinieri, è ancora asserragliato nella casa circondata dai reparti speciali dei Carabinieri. L'uomo è armato con fucili da caccia, era stato ritenuto non più idoneo al possesso delle armi. Slovenia e Croazia non stanno facendo la loro parte sulla rotta balcanica, a dirlo l'assessore regionale Roberti, che chiede più impegno all'Unione Europea per evitare gli arrivi. Dopo i 120 trasferimenti, rimangono 400 profughi nel silos. A Mortegliano e nelle zone colpite dal maltempo continua l'attesa per i ristori dei danni della grandinata. Gli imprenditori sperano possano arrivare presto. Le coperture assicurative restano valide anche con lo stato d'emergenza. Radiologi a gettone al Burlo di Trieste per coprire i turni del fine settimana. La direzione ricorre ai professionisti di una cooperativa mentre procede lo scorrimento della graduatoria del concorso appena concluso. L'impatto della rinaturalizzazione della montagna studiato dall'Europa. L'Università di Udine, capofila del progetto europeo da 10 milioni di euro, che valuterà quanto l'espansione della foresta acceleri la biodiversità e lo stoccaggio di CO2. A Pordenone è presentato il progetto per la riqualificazione dell'ex casermette, opera da 2 milioni 200 mila euro, gran parte dei quali coperti da fondi del PNRR. Ialmico spunta l'ipotesi di un parco fotovoltaico nella ex caserma Lago. Il sindaco di Palmanova rende nota la manifestazione di interesse di una società, una proposta che sembra pensata per scongiurare l'hotspot per migranti. Da una scuola di Gorizia alla mostra del cinema di Venezia, gli studenti dell'Istituto Cossar da Vinci girano una videoinchiesta sul loro istituto e sui loro disagi. Ciclismo con la tappa da Palazzolo dello Stella a San Giorgio di Nogaro scatta oggi il Giro del Friuli Venezia Giulia. Il 3 settembre, gran finale a Trieste. Le 7:20 minuti, questi titoli. Buongiorno da Giorgio Beyerz e Lorenzo Gherlinzoni per questa prima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di giovedì 31 agosto. In apertura oggi subito la cronaca. Un ex ufficiale di complemento dei Carabinieri, Luca Orlandi, originario del Veneto, è asserragliato da ieri mattina armato nella propria abitazione in centro a Cordovado. Nel primo pomeriggio sono state staccate le utenze di luce e gas per scongiurare i rischi per gli occupanti dell'appartamento e per le forze dell'ordine. L'edificio è stato evacuato. In serata Orlandi ha postato degli audio su un suo canale YouTube. Nell'ultimo si rivolge a uno dei negoziatori impiegati dagli investigatori per indurlo a desistere. Dinanzi al telefonino l'uomo affronta la questione delle sue armi e della perizia necessaria alla detenzione delle stesse. Ma sentiamo le ultime novità da Antonio Di Bartolomeo, che si trova in questo momento sul posto. La notte è passata in maniera tranquilla qui a Cordovado, che è un paese spettrale in questo momento. La circolazione nel centro è sostanzialmente proibita a tutti tranne che agli addetti ai lavori, cioè a coloro che stanno cercando di affrontare questa emergenza. Dicevate voi, Luca Orlandi, 55 anni, un ingegnere, da ieri mattina asserragliato in casa dopo che sono andati da lui dei carabinieri per ritirare le armi che possedeva a questo punto in maniera non più legittima, perché non aveva presentato nessun tipo di perizia psichiatrica che desse il nulla osta. Di qui la richiesta nei giorni scorsi di consegnare le armi. Tutta risposta, aveva pubblicato video minacciando le autorità. Di qui appunto si sono presentati in casa ieri mattina con tutte le precauzioni e la risposta è stata questa chiusura nel proprio appartamento con appunto queste armi in suo possesso. La situazione in questo momento è di stallo, è tranquilla. Come avete detto, è stata staccata luce e gas. I vicini del condominio, i condomini sono stati fatti alloggiare in altre parti, presso amici, parenti o in alberghi. In questo momento vediamo alcuni mezzi dei vigili del fuoco, un'autoambulanza, vediamo degli agenti della polizia locale, vediamo anche alcuni carabinieri in assetto antisommossa, in assetto raid, ma questo già da ieri. Nella notte, come dicevate, Luca Orlandi ha pubblicato non due ma addirittura tre video, l'ultimo video di poche ore fa, in cui parla anche di possibilità, di una possibilità di gesti estremi. La situazione viene gestita dai carabinieri e dalla questura. Si cerca ovviamente in questo caso di minimizzare i danni e di mantenere il più possibile il controllo della situazione. La linea può tornare a voi. Grazie Antonio Di Bartolomeo. Naturalmente se ci saranno delle novità puoi intervenire in qualsiasi momento nel corso del giornale radio e noi proseguiamo con la situazione del meteo. Sì, il cielo è in prevalenza coperto sulla regione, le temperature a Trieste 13 gradi, a Udine e Gorizia 14 gradi e mezzo, a Trieste il mare è calmo con temperatura dell'acqua di 23 gradi, 15 gradi a Pordenone, 7 gradi e mezzo sul Piancavallo, a Sappada 8 gradi, a Forni di Sopra 9, 10 gradi e mezzo a Tarvisio, 11 e mezzo a Tolmezzo, in quota sul Monte Lussari 6 gradi e mezzo, 8 gradi sullo Zoncolan, tornando sulla costa a Lignano 17 gradi, 18 gradi e mezzo a Grado, con temperature del mare in entrambe le località di 23 gradi. E queste le previsioni dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale. Cielo da poco nuvoloso a variabile oggi su pianura e costa, sulla zona montana cielo variabile, nel pomeriggio sarà possibile qualche locale pioggia o rovescio, tra la tarda serata e le prime ore della notte di venerdì sarà possibile anche qualche temporale tra pianura e costa. Ancora in primo piano l'emergenza migranti, restano in 400 senza accoglienza a Trieste dopo il trasferimento di 120 richiedenti asilo in Sardegna. Per chi rimane la sopravvivenza è resa più difficile dai temporali. Quando pioveva c'era tanta acqua che ci portava via le tende e le coperte. Era dura e sarà anche peggio perché sta diventando sempre più freddo. Akash, un ingegnere pakistano, 28 anni, dorme al Silos da 2 mesi. Ci racconta che durante la notte i sacchi a pelo si bagnano e che se al mattino si ha fortuna si riesce ad entrare al centro diurno della comunità di San Martino al Campo in via Udine. Davide Venier. Questa mattina abbiamo aperto anche un po' prima, perché appena siamo arrivati abbiamo visto che c'erano 50 persone qui fuori. Diamo docce, diamo la possibilità appunto delle visite mediche e diamo dei vestiti di ricambio. Sono oltre 400 i migranti che al momento non hanno un posto nel sistema di accoglienza. Per avere un pasto caldo, dei vestiti, fanno riferimento alle associazioni che in queste 2 sere di pioggia si sono spostate dalla piazza Libertà sotto le tettoie intorno alla stazione. Ismail Suati, mediatore culturale. Loro erano tutti bagnati, quindi poche risorse che abbiamo non siamo riusciti anche a darglielo tutto quanto. Poi in piazza soprattutto c'era lì all'ombra, hanno dato varie altri tende, altri vestiario, ma non è bastato neanche il per loro. Intanto, dopo mesi di blocco, è stato effettuato il primo trasferimento di 120 richiedenti asilo da Trieste alla Sardegna. L'assessore regionale alla sicurezza e all'immigrazione, Pierpaolo Roberti. A fronte del fatto che il sistema d'accoglienza è così tanto in ginocchio, non ci si possa voltare dall'altra parte e semplicemente provvedere a dei trasferimenti. Bisogna evitare gli arrivi e per evitare gli arrivi deve esserci un impegno più profondo da parte dell'Unione Europea. Penso alla Slovenia e alla Croazia che in questo momento evidentemente non stanno facendo completamente la loro parte. Secondo i dati forniti dall'ICS, ieri hanno ricevuto un posto in accoglienza le persone foto segnalate in maggio. Quelli arrivati dopo dovranno ancora aspettare. Sono andato in pronto soccorso per un problema di salute e mi hanno detto vai a casa e riposa, ci racconta Akash. Ma dove vuoi che vada? Ci dice, guarda che situazione. Trieste, Vaciuk, GR, Friuli Venezia Giulia. Ancora in grosse difficoltà le aziende di Mortegliano nella ricostruzione dopo i temporali dello scorso luglio. Restano tempi lunghi per i ristori e per la liquidazione dei danni da parte delle assicurazioni. La dichiarazione dello stato d'emergenza non comporta limitazioni della copertura assicurativa, al contrario può agevolare l'istruttoria. È l'associazione che riunisce le assicurazioni, l'ANIA, a chiarire uno degli aspetti che avevano generato dubbi e incertezze nelle settimane scorse. Peccato che molti non abbiano visto un perito dell'assicurazione nemmeno col binocolo. L'allevatore Gianluigi Mosanghini ne attende uno da oltre un mese. La parte del tetto in Eternit della sua stalla si è frantumata sotto i colpi della grandine. Le cifre sono importanti e con le nostre mani non riusciremo mai a coprire tutto, quindi prima di iniziare a fare qualcosa vorremmo capire l'assicurazione come interviene, con che cifre, con che importi. Se sull'agricoltura la regione ha trovato una linea di finanziamento a favore di chi rischia di chiudere, diversa la questione negli altri settori. L'Alpea di Mortegliano, che produce semilavorati per le imprese del legno arredo, è ancora ferma e attende sostegni. L'acqua la invade ogni volta che piove, il tetto va rifatto per l'80% e i danni potrebbero essere vicini al fatturato di un intero anno, 6 milioni. I dipendenti sono 24. Tommaso Pelos, socio e amministratore. Io spero che aiuti dalle assicurazioni o dallo Stato in qualche modo arrivino il prima possibile, ma sì, speriamo bene. Io spero solo il prima possibile perché abbiamo bisogno di aiuti. Dopo i 7.750.000 euro arrivati da Roma per rimborsare i primissimi lavori urgenti dell'emergenza, la Regione attende di conoscere dal governo le cifre per i ristori veri e propri. I tempi però potrebbero non essere brevissimi per l'effettiva erogazione, secondo il sindaco di Mortegliano, Roberto Zuliani. È normale che i tempi siano lunghi nella pubblica amministrazione, tutti i tempi sono lunghi, l'importante è che ci sia la certezza di avere poi un ristoro. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Al Burlo Garofolo di Trieste è stata ripristinata la linea telefonica. L'ospedale era rimasto isolato a causa di un blackout provocato dal maltempo. Ora è dunque possibile contattare di nuovo tutti i recapiti dell'istituto. Intanto anche questa struttura ospedaliera ricorre ai medici pagati a gettone contro la carenza di camici bianchi. Medici gettonisti nelle corsie dell'ospedale materno infantile Burlo di Trieste, succede nel reparto di radiologia e solo nel fine settimana. Per coprire i turni l'istituto di ricerca è stato infatti costretto, come altri ospedali della regione, a ricorrere all'uso di una cooperativa che fornisce medici e radiologi liberi professionisti e garantire così il servizio. Una situazione temporanea, assicura la direzione dell'ospedale, che riguarda solo questo reparto. Il concorso per assumere nuovi radiologi è infatti già stato fatto e si sta procedendo a scorrere la graduatoria. Per diversi motivi personali, continua la direzione, i medici strutturati o specializzandi che hanno i titoli per coprire le posizioni stanno ritardando la scelta, ma si confida di risolvere il problema entro l'anno. Il ricorso alle cooperative per coprire i turni negli ospedali viene visto come l'estrema ratio dalle direzioni, ma il problema della carenza di camici bianchi è complesso, riguarda tutto il paese. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. L'Università di Udine è alla guida di un progetto europeo contro la crisi climatica di oltre 10 milioni di euro con 16 partner di 9 paesi dell'Unione Europea che partirà nel gennaio 2024 e durerà 4 anni. Obiettivo del progetto Wildcard è valutare come l'espansione naturale del bosco su terreni agricoli abbandonati e la libera evoluzione dei boschi, una volta cessata la gestione forestale, impattino sulla biodiversità e sulla cattura e stoccaggio dell'anidride carbonica. In pratica si cercherà di capire quanto il ripristino di condizioni naturali in aree montane, prima oggetto di intervento dell'uomo, favorisca la riduzione della concentrazione di anidride carbonica nell'atmosfera. In regione le ricerche si concentreranno nei boschi vetusti di Ampezzo e nelle zone di espansione del bosco come le valli del Torre e del Natisone. Il gruppo di ricerca dell'Università di Udine sarà anche impegnato in una serie di misurazioni e studi volti alla comprensione delle dinamiche legate all'espansione del bosco. Torniamo alla cronaca. A seguito di controlli straordinari da parte del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi in prefettura, il questore di Trieste ha disposto la chiusura per motivi di ordine e sicurezza pubblica per 20 giorni di un pubblico esercizio in via Conti, con conseguente sospensione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Il provvedimento è stato notificato in data 26 agosto. Dalle ispezioni è emerso che il locale è da tempo divenuto punto di incontro di persone che fanno uso smodato di bevande alcoliche, diventando fonte di disturbo per i residenti nonché motivo di intervento da parte delle forze dell'ordine a causa delle frequenti liti fra gli avventori. La portaerei più grande del mondo a Trieste, l'americana USS Gerald Ford, arriverà domenica 17 settembre e rimarrà fino a giovedì seguente. A dare notizia il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che parla di un'ottima opportunità per le attività locali che potranno così accogliere il numeroso equipaggio nei giorni di permanenza di questa imponente nave, che è in grado di trasportare 5.000 persone e ospitare un'ottantina di aerei. È stato presentato a Pordenone, in municipio, il progetto definitivo esecutivo per la riqualificazione delle ex casermette di via Molinari. Attualmente la struttura, che versa in uno stato di degrado, ospita alcune associazioni d'arma, bersaglieri, marinai, paracadutisti e carristi e l'ANED, l'Associazione Nazionale Ex Deportati nei Campi Nazisti. Queste organizzazioni saranno temporaneamente spostate nella casa della fanciulla di via Grado per poi tornare nella struttura. Oltre oltre al recupero edilizio conservativo dell'intero complesso, si attuerà una riorganizzazione funzionale. Creare un parco fotovoltaico nell'ex caserma Lago di Almicco. Il sindaco di Palmanova rende nota la manifestazione di interesse di una società, una proposta alternativa all'ipotesi di un hotspot per i migranti nella struttura. Trasformare la caserma dismessa in un grande parco di pannelli fotovoltaici, è questa l'idea di Key Italia, società di proprietà dell'austriaca Kellag, che si occupa di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per il sito militare di Almicco. Ad annunciare ufficialmente la manifestazione di interesse da parte di Key Italia, inviata all'attenzione del 12° reparto infrastrutture dell'esercito, proprietario del bene, il sindaco di Palmanova Giuseppe Tellini. Il comune infatti era in copia conoscenza assieme al demanio. Vogliono replicare quanto già hanno fatto a 200 metri dalla caserma, un grande impianto fotovoltaico, ci spiega il sindaco, e quindi a maggior ragione non ha nessun senso che si punti a Almicco quale sede di un ipotetico hotspot per accogliere centinaia di migranti. Ipotetico poiché non è mai stata ufficializzata questa decisione da parte delle autorità. Da quasi un mese il sindaco ha chiesto alla prefettura di Trieste un incontro che ancora però non c'è stato. A rafforzare la richiesta di chiarimento urgente ai quattro prefetti e al governatore Massimiliano Fedriga, i 23 comuni della zona, da San Giovanni al Natisone a Terzo d'Aquileia, che in rappresentanza di 80.000 abitanti pongono un problema di sicurezza in una zona, dicono, già carente di forze dell'ordine. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Secondo incontro in regione per Carlo Cottarelli. Dopo l'appuntamento di ieri a Grado, questa sera l'economista ed ex responsabile della Spending Review sarà a Lignano per la presentazione del suo libro Chimere, sogni e fallimenti dell'economia. Nell'ambito della rassegna incontri con l'autore e con il vino. Appuntamento alle 18.30 al Pala Pineta nel Parco del Mare con ingresso libero. Il Friuli Venezia Giulia si conferma una delle regioni più virtuose d'Italia in materia di raccolta e riciclo dei rifiuti di carta e cartone, con la notevole eccezione di Trieste, che da questo punto di vista continua a fare registrare performance molto al di sotto della media nazionale. Lo dice il report relativo al 2022 pubblicato da Comieco, il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a Base Cellulosica, che gestisce direttamente quasi 31.000 tonnellate di rifiuti di carta, pari al 44% della raccolta, riconoscendo ai 214 comuni convenzionati corrispettivi economici per oltre 3.700.000 euro. Sentiamo il direttore generale di Comieco, Carlo Montalbetti. Friuli Venezia Giulia nel 2022 ha dimostrato di saper tenere testa nella raccolta differenziata, perché a fronte di un calo generale dei rifiuti dovuti alla contrazione della crisi economica, sostanzialmente ha mantenuto le stesse quantità raccolte nel 2021. Parliamo di circa 70.000 tonnellate. E qui è interessante vedere il testa a testa tra due province, Udine e Gorizia. Queste sono le due province che raccolgono di più. Per un chilogrammo riesce a spuntarle, quindi maglia rosa Udine, con 63,4 kg per abitante di carta raccolta, segue subito Gorizia con 63,3 kg per abitante. Vedete quindi che abbiamo una interessantissima competizione. Seguono poi Pordenone con 58,5 kg per abitante e abbiamo poi come fanalino di coda Trieste, che si attesta sui 46 kg per abitante. Sostanzialmente quindi una buona prova per quanto riguarda il 2022. Una buona prova, perché la media della raccolta di carta per abitante qual è a livello nazionale? A livello nazionale siamo sui 61 kg per abitante, quindi abbiamo due province che si sono comportate molto bene. L'aspetto positivo, lei diceva, è dato dal fatto che i dati della raccolta di carte 2022 in Friuli Venezia Giulia si sono attestati più o meno sullo stesso valore del 2021. Qualcuno potrebbe magari pensare che invece sarebbe stato forse meglio un aumento della raccolta di carta. Perché invece questo mantenimento di un livello stabile è positivo? È positivo perché abbiamo avuto una riduzione nella produzione dei rifiuti di 1 milione di tonnellate. In Italia si è consumato di meno, quindi si sono prodotti meno rifiuti, e se noi vediamo che a fronte di questa riduzione dei rifiuti invece la raccolta è rimasta costante, vuol dire che sostanzialmente abbiamo raccolto di più. Le ondate di calore, che con frequenza sempre maggiore colpiscono il Mar Mediterraneo, stanno provocando il declino rapido della principale specie di corallo del Golfo di Trieste, la Madrepora acuscino. I censimenti svolti in questi giorni dai ricercatori della riserva marina del WWF hanno mostrato che circa il 70% delle colonie presenti a Miramare è vittima di sbiancamento parziale o totale, un effetto della morte di alcune alghe unicellulari che vivono in simbiosi con il corallo e ne determinano i colori vivaci come il giallo-arancio nel caso della madrepora. Un fenomeno causato dal riscaldamento del mare, di cui l'Adriatico soffre in particolare. Lo scorso anno si è registrata una temperatura media annua superiore di un grado rispetto all'ultimo ventennio e in questi giorni la temperatura del mare ha raggiunto i 26-27 gradi al fondo, il limite soglia per lo scatenarsi dei fenomeni di sbiancamento. Lo sbiancamento tuttavia non porta automaticamente alla morte della colonia, che mostra ampie capacità di rigenerarsi. I ricercatori di Miramare monitorano i coralli della riserva per seguirne l'evoluzione. Fa tappa anche a Pordenone il Tour Zanzara Day, la campagna di sensibilizzazione attivata dalla regione al fine di ampliare la disinfestazione da zanzara. Dalle 8 alle 15 potranno recarsi allo stand informativo in piazza Cavour di fronte a Palazzo Badini per richiedere informazioni relative alla prevenzione. Personale qualificato sarà a disposizione del pubblico per rispondere a tutte le domande. A Fusina è in corso il 21esimo campus per ragazzi con problemi cronici respiratori, in particolare l'asma. Speleoterapia e forestoterapia, le tecniche innovative adottate per aiutare la respirazione. In montagna, ma anche all'interno di una miniera per respirare meglio, la speleoterapia per la cura delle malattie croniche delle vie respiratorie, in particolare l'asma. Il campus, organizzato dall'Associazione Alpi, fa scoprire le miniere di Raibil a Cave del Predil ad una cinquantina di ragazzi che trovano beneficio con la semplice permanenza, per più di un'ora, all'interno della miniera dismessa dal 1991, da dove si estraevano piombo e zinco e oggi è un sito turistico. Mario Canciani, responsabile sanitario del campus universitario. C'è questo ambiente eccezionale che limita le secrezioni respiratorie, che sono più aumentate nei pazienti asmatici. Quindi le loro secrezioni vengono aspirate dalla differenza di temperatura tra esterno, sono 8 gradi, e interno del bronco sono 38, quindi 30 gradi. Non ci sono allergeni, non ci sono microbi, dalle nostre ricerche, e c'è una saturazione dell'aria del 90%. Senti dei benefici dopo che hai fatto l'inalazione all'interno della miniera? Sì, mi sento un respiro molto migliore, anche molto, sto molto meglio di prima. Sì, respiro meglio, mi sento più... respiro meglio. Le cure diverse sono anche quelle della forestoterapia, una settimana di passeggiate tra i boschi per favorire l'inalazione di essenze arboree presenti in montagna. Anche in questo caso i risultati in termini di respirazione sono concreti. Fusine, Tarvisio, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. E alle 7:40 minuti apriamo la pagina dello sport con il calcio. Oggi si chiude oggi il calciomercato dopo la cessione di Beto agli inglesi dell'Everton. L'Udinese è a un passo dall'arrivo di Dennis, centravanti del Nottingham Forest, ed è sulle tracce di Martin Ismael Paiero, mezzala argentina reduce da un ottimo prestito al Middlesbrough, ma di proprietà del Boca Juniors. In Serie C la Triestina, che domani presenterà la squadra in una kermesse in Piazza Unità, cerca di piazzare il colpo Christian D'Urso, che rimane il primo nome sulla lista degli alabardati, col Cosenza che potrebbe cedere dopo l'arrivo di Improta. Il club giuliano però si guarda intorno, un nome nuovo è quello di Riccardo Chiarello in uscita dal Cesena, abbonamenti intanto vicini a quota 3.000. Per il basket prende il via oggi al Carnera di Udine il Memorial Paietta. Alle 18:15 si affrontano Fortitudo Bologna contro i croati dello Scrivievo. Alle 20:45 sul parquet Up World Wild West Udine contro Torino. Domani le finali. Siamo al ciclismo, 4 tappe in programma, 628 chilometri in totale, un dislivello complessivo di oltre 6.000 metri, quasi 70 comuni attraversati. È il 59esimo giro ciclistico internazionale del Friuli Venezia Giulia, che vede accede ai blocchi di partenza, le migliori squadre e i migliori atleti a livello internazionale della categoria Elite e Under 23. L'evento per il sesto anno consecutivo è organizzato dall'ASD Libertas Ceresetto e vede il coinvolgimento di circa 400 persone sul territorio. Alle 13.30 la partenza della prima tappa da Palazzolo dello Stella a San Giorgio di Nogaro lungo un percorso di 161 chilometri. Nei prossimi giorni le altre tappe, domani da Rivoli di Osoppo a Colloredo di Monte Albano, venerdì e appunto da Cordenonza a Sauris di Sopra, sabato 3 settembre la quarta e ultima tappa da Sesto a Regana fino a Trieste. E proprio a conclusione di questa prima tappa del Giro Under 23 del Friuli Venezia Giulia, alle 18 alla Villa Dora di San Giorgio di Nogaro si esibiscono i 30 giovani del Free Voices Show Choir dell'Associazione Culturale Incanto di Capriva. Parliamo di tennis. Nell'undicesima edizione della CMG Tennis Cup, torneo internazionale femminile con montepremi di $25.000, organizzato dalla polisportiva Maremonti sui campi del Tennis Club Triestino, è arrivata la grande sorpresa. La spagnola Angela Fita Boluda ha eliminato l'argentina Solana Sierra, prima testa di serie, il punteggio finale di 6-1-6-3. La slovena, tesserata per il Club Triestino, Nika Radisic, numero 589 del ranking mondiale, ha superato 6-1-7-5 la giapponese Chihiro Muramatsu, numero 556 WTA. Le italiane approdate al secondo sono ben 6. Diletta Cherubini ha approfittato del ritiro sul 5-0 di Lisa Pigato. Jennifer Ruggeri ha superato 7-5-6-1 la russa Anastasia Casanova, terza forza del torneo. Martina Spigarelli 6-2-6-4 alla francese Emma Len, Sofia Rocchetti 6-4-4-6-6-4 a Deborah Chiesa e Anastasia Bagnato 6-4-6-3 a Laura Maier. Le partite del primo turno si sono giocate nei campi indoor a causa della pioggia. Cambiamo argomento. Una video inchiesta realizzata dagli studenti dell'Istituto Superiore Cossar da Vinci di Gorizia sarà proiettata alla Mostra del Cinema di Venezia che si è aperta ieri nella sezione dedicata alla formazione all'immagine. Non potevano più rimanere a scuola nella pausa pranzo e così gli studenti della classe quarta dell'indirizzo Servizi Culturali e dello Spettacolo dell'Istituto Cossar da Vinci di Gorizia hanno scelto di raccontare il loro disagio per questa incongruenza scolastica proprio con le armi tecnico-espressive che stavano imparando. Sentiamo lo studente Nicolò Medessi. Durante la produzione di questo video siamo riusciti con i telefoni e le varie videocamere ad amalgamare quello che noi volevamo esprimere. Tra il suono, il montaggio e anche la scrittura della sceneggiatura ci siamo scambiati parecchie volte i ruoli e abbiamo capito a quale ruolo indirizzarci ognuno di noi della classe. La video inchiesta che hanno realizzato è stata premiata al Palio Cinematografico Studentesco Regionale e Transfrontaliero e da cui è stata selezionata per il Festival del Cinema di Venezia nello spazio evento Ad Occhi Aperti, dedicato alla formazione ed educazione all'immagine nelle scuole, proiezione il 7 settembre. La studentessa Morgana Milisenna. 5 anni fa, quando sono entrata in questa scuola, non mi aspettavo di arrivare fino a Venezia e questo mi fa capire che comunque questo percorso di studi tramite il linguaggio audiovisivo può aprirti tante porte. Il docente del laboratorio audiovisivi Luca Chinaglia, che ha coordinato il progetto. Sicuramente un momento molto formativo e stimolante è stato quando ho visto i ragazzi che, confrontandosi con il linguaggio dei politici, hanno dovuto improvvisare e inventare delle nuove domande per ottenere le risposte che volevano e lì li ho visti veramente maturi. Quest'anno saranno in quinta, si diplomeranno come primi diplomati di questo indirizzo e li troviamo già alla Mostra del Cinema di Venezia. È una soddisfazione veramente enorme. Gorizia, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. Questa sera alle 19 al Museo Revoltella di Trieste lo spettacolo Studi per Museo Pasolini con Ascanio Celestini, un'iniziativa che rientra in un ciclo di eventi omaggio al poeta di Casarsa di cui ci parla il direttore artistico Alessio Rosati. È una rassegna che vuole mostrare il lascito di Pasolini e il suo riverbero nella contemporaneità. Sono 3 diverse declinazioni dell'opera e delle idee di Pierpaolo Pasolini, trasposte in altrettante discipline artistiche e quindi dimostrano l'attualità e l'universalità del pensiero di Pierpaolo Pasolini, del pensiero e dell'opera. Nella fattispecie abbiamo presentato lo scorso luglio un'esibizione al pianoforte e l'elettronica di Giovanni Guidi, che ha lavorato su Comizi d'amore, quindi facendo interagire suoni e immagini, un tema abbastanza caro a Pasolini, soprattutto nell'opera cinematografica. Ascanio Celestini presenta il Museo Pasolini, che è una sua personale reinterpretazione e rielaborazione dell'opera pasoliniana attraverso una serie di riferimenti, aneddoti, nello stile tipicamente da giullare, nel senso più aulico del termine, di Ascanio Celestini. E chiudiamo poi il 20 settembre con un duo, piano e voce, Stefano Battaglia al piano e Elsa Martin, che musicheranno i versi di Pierpaolo Pasolini, quindi la poesia di Pierpaolo Pasolini in musica, la vita e l'opera di Pierpaolo Pasolini in teatro e poi il cinema di Pierpaolo Pasolini attraverso i suoni. Alle 7:47:50 secondi iniziamo la rassegna stampa dalla stampa pordenonese. Ex militare armato asserragliato in casa Cordovado, titola a tutta pagina il Messaggero Veneto con una grande fotografia a centropagina che ritrae la zona rossa costituita attorno all'edificio in cui si è rinchiuso armato Luca Orlandi. Di spalla la cronaca, pubblicate le motivazioni della sentenza di condanna a 7 anni di carcere per Dmitry Trajkov, l'uomo che uccise in un incidente stradale in A28 due cugine trevigiane. In centro a Pordenone chiude i battenti il ristorante moderno Ripartenza fallita. In taglio basso la Summer School a Spilimbergo organizzata dall'associazione Leggiamo 018 in regione, il 51% a maleggere si punta sui giovani. Passiamo al Gazzettino di Pordenone, anche qui l'apertura con foto in prima pagina sull'uomo asserragliato a Cordovado che sfida le forze dell'ordine. Da qui non me ne vado, dice. In taglio alto il turismo estivo paga l'assenza dei tedeschi, il Friuli mantiene ma i 10 milioni di presenze non si raggiungono. Di lato un boxino sull'inflazione che continua a svuotare la borsa della la spesa, in basso, elementari e medie a casa tutti i sabati a Sacile. Dalla prima pagina del Piccolo, edizione di Trieste, leggiamo le bollette della tassa sui rifiuti, arriva una Tari più lieve, tariffe calmierate per i condomini, le imprese pagheranno in più, finiti gli sgravi per il Covid. Il sistema di trasporto pubblico locale TPL del Friuli Venezia Giulia avrà a disposizione entro i prossimi 2 anni 60 nuovi autobus e corriere che attraverso un investimento da 27 milioni di euro comprensivi dei costi per gli impianti di rifornimento e ricarica dei mezzi ecologici saranno utilizzati lungo l'intero territorio regionale, saranno acquistati grazie a uno stanziamento misto di fondi ministeriali complementari e legati al PNRR italiano. Poi la fotonotizia record per Trieste Airport, con il 2023 un anno da ricordare, con passeggeri in aumento del 35%. Arrivano le bollette Tari più lievi per le famiglie, più care per le imprese, poi vigilanza sui carotaggi per la cabinovia, polizia e carabinieri schierati nella zona dei carotaggi collegati al progetto della cabinovia, tengono sotto controllo il cantiere dove sono presenti gli attivisti e la Digos indaga sul danneggiamento degli scorsi giorni. Da lunedì la seconda fase dell'operazione ripristino al laghetto di Contovello, ultimate le verifiche del caso dopo il ritrovamento dei proiettili, si può ora riprendere con trasporto dei fanghi e riempimento. In via di risoluzione quasi tutte le criticità create dalla tempesta d'acqua che lunedì si è abbattuta sulla città di Trieste, riaprono la risiera, il faro della Vittoria, monumento di San Sabba, ok da oggi, quello di strada del Friuli da domani, guasto riparato, il caffè degli specchi riparte. Sanità premia al personale dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, titola il Messaggero Veneto edizione di Udine. In alto in Friuli, un hotspot per i migranti minorenni, in provincia sono 435 giovani richiedenti asilo. A lato le notizie di cronaca locale, aggredisce la fidanzata, i vicini e i poliziotti, giovane arrestato a Udine, a Mereto di Tomba, colpo da 10.000 euro in un'azienda edile. Ancora i legami con Stolvizza della ragazza di 28 anni travolta e uccisa in bicicletta a Milano 2 giorni fa. Dal Piccolo, edizione di Gorizia e Monfalcone, rivoluzione nella raccolta rifiuti, a Gorizia spariranno le isole ecologiche, sospeso il servizio a Lucinico e Piedimonte, secondo il comune sono poco utilizzate, dobbiamo risparmiare. Disinfestazione delle zanzare nelle aree verdi, nelle scuole, l'operazione scatta oggi, parca 2 piani di via Manzoni, cantiere al via a fine settembre, i lavori dureranno 8 mesi, termineranno entro fine estate 2024, ieri il sopralluogo del sindaco. Grado via libera le nuove terme, definizione finito il bando per un'opera da 17,5 milioni che si collegherà all'edificio attuale. Nell'Isontino la vendemmia pronta al via si inizia tra il 5 e il 7 settembre. La raccolta partirà con le qualità di Pinot Grigio e Nero e con il Sauvignon. Dalla cantina produttori l'invito ai soci a separare le uve colpite dalla grandine. Gli appuntamenti di oggi all'Arena Alpe Adria di Lignano tornano i Franz Ferdinand Band, indie rock scozzese che unisce sonorità pop con richiami art rock alle 21. Dante Alighieri e il De Garda di Bingen sono al centro dello spettacolo La Stanza delle Anime di e con Arianna Donizio, stasera alle 20.45 al Castello di Zoppola. A Manzano, inaugurazione della mostra Il Parco Transfrontaliero del Natisone tra progettualità e arte con gli elaborati realizzati dallo UAV di Venezia e le opere dell'artista Renato Paoluzzi all'antico Folle d'Or Boschetti della Torre alle 18.30. Altro vernissage, stavolta la Galleria Spazzapan di Gradisca. L'esposizione si intitola Arte, Cinema, Animazione, dedicata per l'appunto ai film d'animazione alle 19. All'inaugurazione sarà presente il vicepresidente regionale assessore alla cultura Mario Anzil. Proiezione del Tempo delle Lucciole, mediometraggio del fotografo Alessandro Ruzier, stasera al Palazzo De Grazia di Gorizia alle 20.30. Arriva a Fagagna la mostra fotografica itinerante dedicata allo scultore cinquecentesco Giovanni Antonio Pilacorte con la statua del Sant'Apollinare che dopo oltre 200 anni sarà visibile al pubblico per la prima volta alle 18.30 al Palazzo Municipale di Fagagna. Al via oggi la nona edizione del Festival Invisible Cities con progetti itineranti, appuntamenti per i più piccoli e performance di danza a Gorizia fino al 3 settembre, poi a Gradisca dal 6 al 10 settembre. E ricordiamo la notizia con cui abbiamo aperto il giornale: un ex ufficiale di complemento dei Carabinieri, Luca Orlandi, originario del Veneto, è ancora asserragliato, armato, nella propria abitazione in centro a Cordovado. Nel primo pomeriggio erano state staccate le utenze di luce e gas per scongiurare rischi. In serata Orlandi aveva postato anche degli audio su un canale YouTube rivolgendosi a uno dei negoziatori impiegati dagli investigatori per indurlo a desistere. Sul posto le forze dell'ordine stanno controllando la situazione, che in questo momento è ancora di stallo. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 e proseguirà fino a mezzogiorno, quando andrà in onda invece uno speciale in diretta sulla presenza della Premier Meloni a Caivano, e alla termine di questo speciale potrà andare in onda quindi il giornale radio, eventualmente tempi permettendo. È tutto per questa edizione, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.